para nada, pues. Para acá que se acatita una ganda, ¿no? Nala na pa tiyo wini, tiyo wini si karu da pa ike ni nezinya we ni naka benye ju galani la suwa tibirungu tibirungu chonana lungala suwa tisu kisu jani nisaya we yo winistine die negiu nakichibe we nila nutisuki lusuki kene shegiche la dedo nandalugia jani bella wananashi bijigitu nevidia gendaro nashi nanashi. Via kichu nitu dio nisa bine gubija gufali junelayu genda vianis tiu nerija via che ci unito dio nisa vine gubija ti palani che dairani genda navani zara Chunito dio nisa vine gubija gupali junela yu genda vianis tiu nedicha via che chunito dio nisa vine gubija i palani che dairani genda navani sarà.